Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel weekend che chiude il Ponte dell'Immacolata, dedicato per tradizione agli acquisti natalizi, vogliamo fare il punto su numeri e tendenze che iniziano a raccontarci questo Natale 2011 dal punto di vista dei consumi, tra budget ridotti e caccia all'affare migliore. Ne parleremo in tutta questa prima parte. Focus sui trend dedicato invece ai consumi in disordine, quando il caos fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Dopo un solo mese di vita, la Coca-Cola ha deciso di bocciare le lattine bianche natalizie. Il colosso di Atlanta torna al classico e più affidabile rosso. Il motivo? La freddezza con cui i consumatori hanno accolto le nuove lattine, troppo simili a quelle argentate della Diet Coke. L'azienda ha dichiarato di essersi accorta delle lamentele dei clienti tramite i loro commenti su Twitter. Ai social network si sono rivolti anche i servizi segreti britannici in cerca di Cyber 007. Lo hanno fatto pubblicando su Twitter e Facebook una schermata costellata di numeri e lettere con una domanda: riesci a craccare il codice? Chi è riuscito a risolvere il rompicapo è stato indirizzato sul sito internet dell'organizzazione, alla pagina Reclutamento. Consigli antitruffa sulle confezioni di latte. L'iniziativa, che sfrutta un'idea già sviluppata negli Stati Uniti per le persone scomparse, è della Questura di Trieste. In collaborazione con le latterie carsiche, saranno stampate 300.000 confezioni con fumetti e frasi, destinati ai consumatori anziani, su come evitare le truffe più comuni. Dopo Versace, tocca nuovamente a una casa di moda italiana creare la nuova linea Limited Edition di H&M, Marni. La collezione, firmata da Consuelo Castiglioni, direttrice creativa del brand, sarà disponibile dall'8 marzo 2012. La seduzione e il fascino di Marilyn Monroe sono al centro della nuova mostra che sarà allestita al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze. Dopo Greta Garbo, il mistero dello stile, che l'anno scorso ha illustrato l'eleganza algida della divina, il brand fiorentino del lusso racconta un'altra intramontabile icona del cinema hollywoodiano. La borsa della spesa. Oh! Mi scusi. Scusi lei? No. Li vuole lei? Avanti, li prendo. Non importa. È l'ultimo paio. Mi scusi, avete un altro paio di guanti di cashmere? La merce disponibile è tutta esposta. Non avete un magazzino? No. Un seminterrato? No. E non c'è neanche una soffitta. Li prenda lei, a me non servono. No, li ha visti prima lei. Io. La prego, insisto. Li prenda lei. Aspetti. Mi scusi, signore. Sì? Questi sono nostri. Sono vostri? E come mai? Esatto. Sì, insomma, erano ancora lì appesi, buoni buoni, con il talloncino del prezzo. Stia calmo. 5 giorni prima di Natale in un grande magazzino di New York. Questo mi chiede di stare calmo. Senta, questi guanti sono un regalo speciale per una persona speciale. Ci abbiamo pensato molto prima di decidere. Ah, infatti, ha ragione. E per chi sarebbero? Per la mia ragazza. Per il mio ragazzo. Per la sua ragazza. Ah. Per la sua ragazza. Per il suo ragazzo. E come fanno? Un guanto per uno? Corsa all'ultimo regalo, qualche giorno prima di Natale. Scene d'altri tempi, il film Serendipity è del 2001. Oggi non molti sono pronti a scommettere su una buona stagione di acquisti natalizi. Siamo già in recessione, dice Confcommercio, che prevede consumi in calo, anche se non disastrosi, e un Natale al risparmio, ma non peggiore di quello del 2010. Per 8 italiani su 10 sarà un Natale dimesso. Il dato nuovo è che questa flessione interesserà anche i settori tradizionalmente più forti, come la tecnologia. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Per il Natale il sentiment delle famiglie appare tutto sommato non particolarmente depresso, diciamo come lo scorso anno, quindi niente di speciale. Ci saranno dei cali dei consumi che riguarderanno soprattutto piccoli elettrodomestici, l'abbigliamento e anche la tecnologia non è esente da qualche rischio, mentre sono sempre cresciuti i consumi di tecnologia, a Natale qualche possibile battuta d'arresto potrebbe esserci. E questo, diciamo, è un po' il senso della paura della recessione. Parola d'ordine risparmio, ma c'è chi prevede il Natale peggiore degli ultimi 10 anni. Le più pessimiste sono le associazioni dei consumatori. Quest'anno, concordano, la voglia di Natale non riuscirà a battere la crisi. Budget ridotto all'osso, pagate tutte le spese, per i regali resterà solo il 12% della tredicesima, hanno calcolato Adusbef e Federconsumatori. E il Codacons prevede il Natale peggiore degli ultimi 10 anni, con acquisti in calo, anche del 20%, per abbigliamento, calzature e viaggi. A tagliare sulle spese natalizie, rivela una ricerca del club degli sconti online Private Outlet, saranno ben 6 italiani su 10, che spenderanno fino al 30% in meno rispetto all'anno scorso. Sul web, invece, dove fanno abitualmente acquisti 9 milioni di italiani, in crescita del 20% rispetto al 2010, nessuno teme la crisi. E eBay fa anche le previsioni sui giorni con il picco di shopping natalizio. Domani, 12 dicembre, per gli acquisti da smartphone o tablet, e il 19 dicembre per quelli da PC. Tutti in rete dunque, a caccia dell'affare migliore, e la metà degli italiani che si rivolge a internet lo fa proprio per trovare l'offerta migliore. Questo spiega il successo dei siti di social shopping, i gruppi di acquisto online, Groupon, Groupalia, Let's Bonus e simili, ma attenzione, non è tutto oro quello che luccica, ci dice Massimiliano Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori. I consumatori italiani stanno scoprendo la rete, i benefici degli acquisti online. Dopo un'iniziale diffidenza, adesso alcune grandi mode come quella dei gruppi d'acquisto online stanno per fortuna spingendo nuovamente i consumi. Comprare sulla rete implica alcune attenzioni, vorrei dire non diverse da quelle che dovremmo adottare quando acquistiamo secondo i canali tradizionali. Ed invece, paradossalmente, proprio la familiarità che ormai molti di noi hanno con la tecnologia fanno sì che ci si avvicini all'e-commerce con una certa leggerezza. Il fatto di sottovalutare l'importanza di un click, forse per la comodità, la praticità dello strumento che è ormai nelle nostre tasche. Di cosa diffidare? Direi che il primo indice di sospetto è il prezzo particolarmente conveniente. Sono i prezzi civetta. Cosa accade? Che il consumatore poi non troverà quella videocamera a quel prezzo particolare, ma ormai in lui è scattato il meccanismo dell'acquisto. 8 volte su 10, secondo i nostri dati, completerà comunque l'acquisto, magari di un'altra telecamera, non proprio quella che aveva attirato la sua attenzione, e soprattutto ad un altro prezzo. 3 italiani su 10 sono intenzionati a spendere di meno rispetto all'anno scorso, conferma anche uno studio effettuato dal motore di ricerca Yahoo. Sentiamo Matteo Failla, direttore editoriale di Yahoo Italia. È interessante, secondo me, valutare la cifra che è disposta a spendere una persona. Il 48% degli italiani ha deciso che spenderà una cifra compresa tra i 100 e i 500 euro. Il 36% invece avrà un budget ridotto e al di sotto dei 100 euro. Ovvio che in tutto questo poi c'è un 5% di fortunati che spenderanno comunque cifre superiori ai 1500 euro per i regali. Risparmiare va bene, ma senza sacrificare la sicurezza, soprattutto per quanto riguarda gli addobbi e le decorazioni natalizie che in questi giorni iniziano ad abbellire le nostre case. L'avvertimento arriva da una ricerca commissionata da Underwriters Laboratories, organizzazione mondiale leader nella sicurezza. Marcello Manca, General Manager UL Italia. L'italiano in questo momento sta molto attento alla parte economica, ha una marcata attenzione nei confronti della sicurezza del prodotto che vuole mettere in casa, al quale vuol fare avvicinare anche i propri bambini, i propri cari, però in questo momento guarda molto attentamente il portafoglio. Questa è una cosa alla quale bisogna stare molto attenti. Al momento dell'acquisto il nostro consiglio è di cercare soltanto prodotti certificati, cercare un qualsiasi marchio di sicurezza europeo, appunto, che attesti la validità della marcatura CE sul prodotto elettrico. Quando invece ci portiamo i prodotti in casa, li attacchiamo alla rete, li utilizziamo, li accendiamo, seguite bene le istruzioni per l'uso, non lasciate mai niente di acceso quando non siete in casa o quando andate a letto la notte, e soprattutto occhio all'utilizzo da parte di bambini, da parte di anziani, che solitamente sono i soggetti che vengono toccati dai problemi di sicurezza. Essere e avere. In ogni caos c'è un cosmo, in ogni disordine un ordine segreto. Con questa citazione junghiana apriamo la seconda parte di Essere e Avere, capiremo il perché tra pochissimo, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Consumi in disordine, il tema di oggi. Vogliamo parlare di prodotti, servizi, campagne di comunicazione, strategie di marketing che si ispirano al caos, al disordine appunto. Segno dei tempi che stiamo vivendo, il caos può diventare un'opportunità, l'elemento forte su cui puntare. Patrizia. Sì, il caos è più fondamentale dell'ordine, è la situazione, se ci pensiamo, più comune in natura, mentre l'ordine è relativamente raro e può essere oltretutto alterato dalla più piccola perturbazione. Ma il caos non è da intendersi come completo disordine, perché i sistemi caotici in realtà sono sistemi dinamici riconducibili a una logica complessa, certo, ma una logica ce l'hanno, dunque prevedibili a breve termine. Dunque nel caos c'è ordine, c'è un equilibrio che si situa ai cosiddetti margini del caos, quindi tra stabilità e anarchia. Questi concetti trovano espressione naturalmente anche nel mondo dei consumi, ecco perché ne parliamo, nell'estetica degli oggetti, nel retail, in tutti quei prodotti disordinati e caotici che adesso illustreremo, ma anche e soprattutto il caos può essere la metafora per il comportamento umano, per il comportamento sociale. Non a caso il caos è stato il tema dell'ultima edizione di Vedrò 2011, Vedrò è la think tank sul futuro dell'Italia, dell'Europa, il sottotitolo era proprio il caos come opportunità. Opportunità nell'economia, nella comunicazione, nella politica, nello sport, nella cultura, nelle città, nella pubblica amministrazione, ma anche nella TV, nell'impresa. Tornando al mondo dei consumi, vediamo le varie espressioni del caos. È un modulo assemblabile che nasce dall'idea di valorizzare il disordine rendendolo graficamente accattivante. Parliamo della libreria Caos con la K. Progettata dallo studio austriaco Destillat, facilita il sovvertimento di qualsiasi criterio di archiviazione dei libri, già di per sé un'impresa difficile, consente di raggruppare in verticale o orizzontale piccolissimi gruppi di libri, grandi o piccoli, con un effetto finale di disordine unico e irripetibile a seconda di come si posizionano e soprattutto singolare, perché ogni volta che si fa una modifica l'ordine viene ristabilito. Passando al retail, anche qui le estetiche caotiche hanno delle espressioni interessanti. Disordine uguale desigual è il marchio spagnolo moda fondato nell'84 a Ibiza, che ha fatto delle combinazioni patchwork estreme di forme, colori, trame, tessuti, una sorta di mantello di Arlecchino senza schemi e pattern apparentemente riconoscibili, in realtà l'elemento distintivo delle collezioni di questo brand. Gli store sono dei luoghi molto significativi, fantasiosi, disordinatissimi bazar, stracolmi di merci variopinte, con un effetto di vera fantasmagoria quasi ipnotica di quanto viene esposto, quindi un caos originale progettato come tale. Una delle teorie scientifiche più studiate, applicata in molte discipline, matematica, fisica, chimica, ma anche economia, finanza, climatologia, è proprio la teoria del caos. Una teoria suggestiva che ritroviamo anche in molti film, associata al cosiddetto effetto farfalla, stratagemma narrativo d'effetto. Eccolo nel curioso caso di Benjamin Button. Una donna a Parigi stava uscendo a fare compere, ma aveva dimenticato il soprabito e tornò indietro a prenderlo. Mentre era lì squillò il telefono e lei rispose e parlò per un paio di minuti. Mentre la donna era al telefono, Daisy stava provando uno spettacolo all'Opéra de Paris. Un tassista, poco prima, aveva scaricato un cliente e si era fermato a prendere un caffè. Questo tassista, che si era fermato per un caffè, prese a bordo la donna che andava a fare compere e che aveva perso l'altro taxi. E mentre Daisy si faceva la doccia, il taxi aspettava la donna che era entrata in una pasticceria a ritirare un pacchetto che però non era pronto, perché la commessa si era lasciata col fidanzato la sera prima e se n'era dimenticata. Ritirato il pacchetto, la donna era rientrata nel taxi che rimase bloccato da un furgone. Il furgone si spostò e il taxi poté ripartire, mentre Daisy, ultima a vestirsi, si fermò ad aspettare un'amica alla quale si era rotto un laccio. La vita, essendo quella che è, aveva creato una serie di circostanze incrociate e incontrollabili. E così quel taxi investì Daisy. e la sua gamba fu spezzata. Patrizia, è una teoria affascinante che colpisce molto l'immaginario collettivo. Beh, certamente, pensare che un battito d'ali di una farfalla a Pechino possa causare una variazione meteorologica qualche tempo dopo da un'altra parte del pianeta, per esempio a New York, è certamente affascinante. Era il 1987, lo ricordiamo, quando James Gleick pubblicava Chaos, questo testo seminale, successo mondiale, tradotto in 18 lingue, suggellando proprio l'inizio di una vera e propria scienza. La teoria del caos ha messo in discussione il determinismo scientifico di tutte le discipline, come dicevi, dalla fisica all'informatica, alla biologia, alla finanza, alla meteorologia. In sintesi, il caos elimina la prevedibilità di qualsiasi fenomeno, come dire che nulla accade mai due volte allo stesso modo, pur con le stesse condizioni iniziali, con lo stesso battito d'ali della farfalla. Altri testi fondamentali sul tema: Out of Control del 94 di Kevin Kelly, ai tempi editor di Wired, e Complessità, la nuova scienza tra ordine e caos, questo del 92 di Mitchell Waldrop. Per tornare all'immaginario, quindi, non solo il concetto di caos, ma anche la teoria stessa è entrata così nel sentire comune contemporaneo, non solo nel design, come abbiamo visto, negli oggetti, ma anche in altri ambiti, per esempio nella progettualità degli spazi pubblici. Le regole, sappiamo, sono il modo più semplice per arginare il caos, e questo è vero soprattutto per la mobilità. Strade e marciapiedi sono luoghi regolati dalla segnalazione etica, strisce pedonali, semafori, barriere, ma che cosa succede se queste regole saltano? Questa è l'ipotesi di lavoro del progetto londinese realizzato in Exhibition Road, l'arteria culturale della città, che va dalla stazione del metro di South Kensington a Hyde Park e che abolisce provocatoriamente questa distinzione. L'esperimento va avanti da un anno e mezzo e vede persone, biciclette e automobili auto-organizzarsi, negoziandosi lo spazio comune di cui di volta in volta si vogliono appropriare. Dunque, strade e marciapiede sono un continuo, una superficie senza confini e regole, che rientra tra l'altro nel più ampio progetto noto come Shared Space, spazio condiviso. Exhibition Road, questo è il dato interessante, ha visto i pedoni capaci di prendersi i due terzi dello spazio. Sembrerà paradossale, ma l'apparente caos di uno spazio anarchico senza regole agisce molto positivamente sul livello di attenzione degli automobilisti, dei ciclisti, riducendo notevolmente il rischio di incidenti, tra l'altro. La teoria del caos ha segnato un cambio di paradigma anche nello studio dei sistemi sociali, come abbiamo detto, della comunicazione, delle reti, ed è entrato anche nelle organizzazioni, nelle aziende, non solo dal punto di vista di una nuova teoria per studiarne le dinamiche evolutive. Entra anche proprio come innesco per il cambiamento. Il caso interessante è di Lori Rosenwald, artista designer che insegna alle aziende grandi, da Starbucks a Google, ma anche piccole, a generare e governare il caos, proprio come condizione base per la creatività, l'innovazione e il cambiamento. Assicurare e rassicurare contro l'incertezza e l'inaspettato rimane l'obiettivo, come sappiamo, delle compagnie di assicurazioni, che in genere edulcorano e eufemizzano l'oggetto del loro servizio, cioè il rischio. Invece la compagnia americana State Farm ha lanciato una campagna di comunicazione molto interessante, che fa vedere la propria casa che salta in aria ad opera di una variabile impazzita, in questo caso un robot gigante. La propria casa in senso letterale, perché inserito il proprio indirizzo e il nome, che è facoltativo, nel sito di riferimento, ecco che grazie a Google Street View e a una soluzione in 3D di realtà aumentata si vede esattamente la strada e la casa del proprio domicilio, si vede l'arrivo del robot che scaglia una macchina in aria, divelle, pali della luce, distrugge la casa. Ultima immagine, la casella postale con il nostro nome scagliata oltre le fiamme. Il claim finale è: state pronti, molto pronti. Dunque, casualità, imprevedibilità e caos che regnano nelle nostre vite, tutt'altro che prevedibili e lineari. La campagna si chiama Lo Stato del Caos. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Svizzera su consumi, disordine e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. È proprio dal concetto di caos che prende le mosse l'opera artistica di Ursus Wörli. Da buon elvetico, Ursus è ossessionato dall'ordine e combatte la sua personalissima battaglia contro il disordine e l'anarchia contemporanei a colpi di ironia e invenzioni surreali. Lui stesso, che nasce tra l'altro come cabarettista, afferma: noi svizzeri riusciamo ad essere felici soltanto quando ogni cosa è in ordine al suo posto. Beh, detto fatto, il suo primo progetto del 2003, Tidying up art, riordinare l'arte, si pone un ambizioso obiettivo: mettere in ordine i grandi capolavori della pittura occidentale, scomponendone e riassemblandone in un gioco visivo forme, colori e dettagli. Ci troviamo così di fronte ai quadrati colorati di Paul Klee, impilati secondo razionalità cromatica, o alla famosa camera di Van Gogh risistemata, dove ogni oggetto viene accatastato in cima al letto. Non Pago dedica il suo ultimo lavoro, The Art of Clean Up, l'arte del ripulire, a mettere in ordine la realtà, fotografando scene e oggetti di vita quotidiana prima e dopo la pulizia. Un esempio su tutti: nel primo scatto vediamo la foto dall'alto di un parcheggio con le automobili, nel secondo scatto le auto sono state ridisposte per colore e dimensioni, come se un gigante in preda a una sorta di compulsione si fosse divertito a riordinarle, il tutto per riaffermare in modo paradossale l'inevitabilità del caos in quanto caratteristica intrinseca della realtà che ci circonda. Grazie Alessia. Patrizia, dall'arte alla moda, lo abbiamo sentito, e se fosse il caos a salvarci dalla crisi? Ti rispondo intanto con una citazione, un celebre aforisma di Karl Kraus: ben venga il caos perché l'ordine non ha funzionato. Certamente non è solo possibile gestire il caos, ma forse diventa anche necessario. Oggi i problemi economici, ambientali, politici, sociali resistono a soluzioni lineari, semplici, perché sono complessi, caotici, e dunque richiedono soluzioni complesse. Abbiamo visto che i sistemi complessi tendono a situarsi in un punto che abbiamo definito finito il margine del caos. Ecco, quel punto va immaginato come luogo in cui vi è sufficiente innovazione per dare vitalità al sistema, quindi nuove energie, e anche sufficiente stabilità per impedirgli di precipitare nell'anarchia. Questa potrebbe essere certamente una formula ispirativa anche in tempi di crisi. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.